Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Il 3 giugno 2016 il mondo dello sport, ma direi il mondo in generale, ha subito una delle sue perdite più gravi. È morto uno dei più grandi sportivi della storia, uno dei più grandi pugili mai esistiti, ma una delle figure più carismatiche e anche controverse, sia dentro che fuori dal ring, un uomo il cui impatto mediatico e sociale non ha avuto precedenti nel mondo agonistico e non. Sto parlando, l'avete capito, di Cassius Clay, diventato con la conversione all'islamismo Muhammad Ali. L'atleta forse più conosciuto di tutti i tempi, lo sportivo del secolo, è autore di libri, portavoce del movimento afroamericano per la difesa, per la tutela dei diritti dei neri, finito in carcere per non aver voluto combattere nella guerra del Vietnam, alla quale si era opposto con tutte le sue forze, insomma uno dei più grandi uomini della storia. E tutto il mondo lo ha pianto, da ogni paese della terra milioni di persone si sono strette attorno alla sua grande famiglia, 9 figli avuti da 4 mogli, da diverse amanti, un numero imprecisato di nipoti, tante persone quindi rimaste senza quest'uomo carismatico che era malato da molti anni di Parkinson, ve lo ricordate già all'inaugurazione delle Olimpiadi con la mano tremante che commosse il mondo quando faticosamente riuscì a accendere la fiaccola olimpica. Ma c'è stata tra i tanti figli una donna, la sua figlia minore, che più di tutti si è espressa, ha parlato del padre di fronte alle telecamere, ha partecipato a trasmissioni che lo celebravano, ha accettato di farsi intervistare parlandone in termini entusiastici. Well, we're sad. I personally have been sad. Siamo tutti tristi. Io personalmente sono triste da molto tempo. Mio padre ha lottato contro il morbo di Parkinson per molti anni e non era facile vederlo soffrire così, quindi sapere che non soffre più mi dà un certo conforto. Mi ero preparata mentalmente per molti anni al fatto che ovviamente un giorno avrei perso mio padre e quel momento è arrivato. Penso che tutto il mondo sia triste, tutti quelli che lo hanno amato e sono stati tantissimi. Non mi sento sola, non soffre solo la mia famiglia, ma tutto il mondo. It's not just our family, it's the whole world. Quella che avete sentito è l'unica dei 9 figli di Muhammad Ali a non aver avuto paura del confronto con un padre del genere. L'unica che ha deciso di seguire le orme del padre sul ring, divenendo a sua volta una donna pugile e una grandissima campionessa. Quella figlia si chiama Layla Ali ed è la nostra protagonista di oggi. Non è facile immaginare cosa possa voler dire essere la figlia di Cassius Clay, di Muhammad Ali, anche perché lei, Layla Amaria Ali, nasce a Miami Beach in Florida il 30 dicembre del 77, quando il padre, 35enne, è una leggenda vivente da anni, è già stato Fighter of the Year un numero imprecisato di volte, è pluricampione del mondo, ha combattuto incontri leggendari che hanno fatto la storia del pugilato, come la sfida plurima contro Sonny Liston, i 3 micidiali match contro l'irriducibile rivale Joe Frazier, il famosissimo Rumble in the Jungle, la rissa nella giungla, il drammatico incontro tenutosi in Zaire nel 74 che lo vede vincere su un altro dei più forti campioni di tutti i tempi, George Foreman. È un match che è considerato ancora oggi il più famoso della storia del pugilato. Insomma, la piccola Layla fin da bambina respira quest'aria, vede il padre allenarsi, conosce i campioni più famosi del mondo, va spesso agli incontri, ha il pugilato nel DNA e se ne appassiona come non succederà ai suoi fratelli e alle sue sorelle. In realtà lei non ha nessuna delle caratteristiche della donna pugile, intanto è figlia di Veronica Porsche, la terza moglie di Ali, che era una ex modella bellissima. E passa alla figlia la sua stessa avvenenza. Insomma, Layla è alta, 1,78 m, ha un viso perfetto, assomiglia molto anche al padre che aveva dei lineamenti molto regolari, ma in più c'è la madre che ha messo del suo, insomma, fisico statuario, i genitori pensano che lei possa seguire di più le orme materne, lavorare nella moda, e in realtà all'inizio anche lei la pensa così: si diploma, apre un centro estetico, si appassiona a qualcosa che soprattutto in quegli anni negli Stati Uniti va di gran moda, cioè la nail art, che è l'arte della decorazione delle unghie. Poi però succede qualcosa. Sicuramente ce l'avevo nel sangue la capacità di essere un pugile, perché lo era mio padre, ma è stato vedere delle donne che combattevano in televisione che mi ha fatto capire che volevo farlo anche io, perché non pensavo di poterlo fare finché non ho visto delle donne combattere. Le donne fanno la box? Voglio farlo anche io. Il falco e il gabbiano. Laila Ali ha 19 anni quando inizia a seguire il pugilato femminile. Fino a quel momento la box era stata solo lo sport del mitico padre di Cassius Clay, di Muhammad Ali, e il ring era solo il quadrato nel quale vedeva combattere gli uomini, e lei era tutta presa dalle sue velleità artistiche, dal suo salone di bellezza. Ma un giorno le capita di vedere un incontro. È un incontro per molti versi leggendario. Il 16 marzo del 96 ci sono due ragazze, Christy Martin e Deidre Gogarty, che combattono il primo match veramente da professioniste, ponendo l'attenzione dei fan sul pugilato femminile. E tra i vari proseliti che crea questo debutto c'è anche lei, Laila Ali. Molti pensano che io abbia iniziato a combattere perché mio padre era un pugile, ma in realtà non mi era mai passato nemmeno per la mente di salire su un ring fino a quando non vidi un incontro di box femminile in televisione. Vidi le atlete sul ring piene di sangue e pensai: quello fa per me, lo voglio fare. Così ho iniziato ad allenarmi dopo il lavoro tutte le sere. Ovviamente hanno iniziato a parlarne. La figlia di Muhammad Ali in palestra. La gente mi chiedeva: hai intenzione di combattere? Io rispondevo: no, no, voglio solo dimagrire. Ma poi arrivò alle orecchie di mio padre e lui mi chiese: hai intenzione di combattere? Allora io gli dissi la verità: sì, voglio combattere. Lui ha fatto tutto il possibile per dissuadermi, ma non ha funzionato. Lei inizia a allenarsi e lo fa con grande serietà, e il fisico di base ce l'ha perché è alta, è atletica e muscolosa. Chiaramente deve trasformarsi, deve aumentare la massa muscolare, deve farsi fiato. Il padre all'inizio non è molto favorevole, perché lui sa cosa significhi stare su un ring e prendere le botte. È un padre amorevole e tutto questo lo vorrebbe risparmiare a sua figlia. Lei ha spesso raccontato ai giornalisti quanto bravo fosse suo padre come genitore, quanto fosse amorevole e protettivo. Ma mio padre, non c'è molto di mio padre che la gente già non sappia, perché lui era un libro aperto. Trattava i bambini che non conosceva esattamente come trattavano i figli. Li prendeva in braccio, li baciava, metteva sempre prima i bambini. Le sue opere umanitarie erano per loro, per assicurargli un futuro migliore. Era un padre amorevole, ci dava tutto quello che volevamo, che ora che sono genitore anch'io so che non è sempre la cosa migliore da fare. Ma insomma, quello che mi ricordo di lui era essere sempre baciata, abbracciata. Voleva vedere il sorriso sul tuo viso. Insomma, è ovvio che un padre così amorevole cerchi in tutti i modi di tenere la figlia lontana dal ring, ma vista la determinazione di Laila, sicuramente prima o poi i suoi consigli devono essere arrivati, probabilmente anche dei consigli buoni, perché lo vedremo, la carriera di Laila come pugile sarà sfolgorante, sarà di enorme successo. E lei il primo incontro lo combatte a 21 anni, 8 ottobre del 99. Ricordiamoci, alto 1,78 m, pesa 75 kg, quindi gareggia nella categoria dei super medi. La sua rivale è April Fowler, una brava pugile di Manchester, ma è ovvio che l'incontro è particolarmente atteso per lei, perché combatte la figlia di Muhammad Ali, che dimostra da subito di essere una ragazza terribilmente determinata. Vedete, il mio essere competitiva è il modo che ho io di ispirarmi. Ciascuno di noi ha bisogno di qualcosa da cui trarre ispirazione. Per me è questo. Se c'è una sfida, io mi dico, posso farlo. Se mi dico, devi vincere, poi devo provare a me stessa che posso vincere. Faccio tutto per me stessa. E Laila Ali sconfigge April Fowler per KO al primo round con una potenza degna di un collega maschio. E anche i giornalisti sportivi capiscono subito che si trovano di fronte a un fenomeno, a una figlia che ha preso molto dal padre. E lei combatte altri due incontri nel 99, 5 nel 2000 e vince sempre. Uno degli incontri che si ricordano di più di lei è quello che si tiene a Guangzhou in Cina il 22 aprile del 2000 contro una statunitense, Christina King. Ascoltate alla fine cosa dice Laila dopo aver vinto, ovviamente. Christina King tries to make a fight of it. Riley puts her back in the heel. Tickles her again. She runs it up. The referee may stop it, and he does. It's all over. It'll be a TKO win for Laila Ali. That was a good stoppage. Ladies and gentlemen, the winner by way of technical knockout and still undefeated, Laila Shibi Stingin Ali. That was for you, Dad. It was for you, Dad. Era per te, papà. Questa è la dedica al padre. E saranno parecchie queste dediche. Sicuramente la più gradita è quella dell'8 giugno 2001. Perché qui c'è un incontro veramente particolare. Perché lei là lì affronta qualcuno che ha un significato particolare nella sua carriera, ma soprattutto in quella del padre. Combatte contro Jackie Fraser Lyd, che è la figlia dello storico rivale Joe Fraser. L'incontro ovviamente attira la stampa e i media di tutto il mondo. Viene ribattezzato dalla stampa Ali Fraser Number 4, allusione ai precedenti tre match passati alla storia, combattuti tra i due grandissimi pesi massimi. Fraser vinse il primo, Muhammad Ali vinse gli altri due. Il terzo incontro Ali Fraser si tenne a Manila, nelle Filippine, e passò alla storia come Thriller in Manila, un incontro votato dai critici di tutto il mondo come il più feroce e brutale mai visto. Ma ascoltiamo invece l'incontro tra le figlie. Best round of the fight thus far for Ali. Still not really able to use that jab, but Jackie Fraser, not as much on her punches as there were in the first two rounds. And now direct a little bit on shaky legs right now near the end of the third. Big round for Ali. Big round for Laila Ali. As you can see, she stiff arms her way in. Al di là della potenza, della prestanza fisica, che ovviamente per due donne non può essere paragonabile a quella di due uomini, le figlie lottano come i padri. È una scena da tragedia greca. Hanno la stessa caparbietà, la stessa determinazione. Alla fine del match è Laila Ali a avere la meglio, a battere Jackie Fraser, esattamente come il padre aveva fatto 26 anni prima. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Laila Ali, figlia del grandissimo Muhammad Ali, il mitico Cassius Clay, scomparso il 3 giugno del 2016, il campione per eccellenza, il pugile più grande di tutti, lo sportivo più famoso del mondo, direi il più importante anche per quello che ha rappresentato al di là del pugilato. Bene, Laila Ali, incurante di un raffronto praticamente impossibile, ha seguito le orme paterne, ha affrontato il ring con lo stesso atteggiamento agguerrito del padre, ha combattuto e ha vinto contro grandi avversari e si è conquistato un posto preminente nel mondo del pugilato femminile. E a chi le ha chiesto quale fosse la lezione più importante trasmessa dal padre, non ha risposto parlando di segreti di allenamento, di strategia sul ring, ha parlato di ben altro. Per me è papà, ma è anche tutte le cose che è per voi, perché io sono cresciuta guardandolo. Essendo una leggenda, non stava tanto a casa, lo vedevo come lo vedevate tutti voi alla televisione. Penso che la più grande lezione che io abbia mai imparato da mio padre è avere compassione per gli altri. Mio padre amava la gente, indipendentemente dalla razza, dalla posizione sociale. Trattava tutti con bontà, amore e rispetto. Queste cose sono entrate in me semplicemente guardandolo. E nel nostro racconto su Layla Ali siamo arrivati al 2002. Va a Las Vegas, batte Suzette Taylor e conquista il titolo IBA, International Boxing Association. Siamo in agosto, a novembre le corone vengono unificate e lei batte la temibile Valerie Mahfood per KO tecnico, conquistando, come dire, il titolo mondiale di tutte le corone. L'anno dopo, il 23 agosto, ha un'altra grande soddisfazione personale. Affronta infatti la sua ispiratrice Christy Martin, quella che aveva visto combattere in televisione, che l'aveva convinta a fare la pugile, e indovinate come va a finire. And now we see the blood and she's looking at the corner saying perhaps I can't get it done this time. She'll never make it through this round. And that is exactly what she signaled at her corner. It is over inside of four. And Layla Ali is the reigning champion of women's boxing. KO al quarto round. Layla prosegue imbattuta. Nel 2004 difende il titolo contro Nikki Eplon, Monica Nunez. Nello stesso anno si aggiudica anche il titolo dei pesi massimi leggeri, batte Gwendolyn O'Neill. Nel 2005 conquista il World Boxing Council contro Erin Thugrill, un atleta molto difficile da battere perché è anche una campionessa di arti marziali, e poi continua a difendere i suoi titoli nel 2006 e nel 2007 fino al suo ultimo incontro, che si disputa in Sudafrica, Cape Town, e il 2 febbraio 2007 ancora contro Gwendolyn O'Neill. Ma non c'è niente da fare, vince ancora lei. Nel 2007, a quasi 30 anni, Layla Ali decide di lasciare il ring con un palmarès straordinario, degno del padre: 24 incontri disputati, 24 vittorie, di cui 21 per KO. Neanche il padre era riuscito a chiudere una carriera da imbattuto, ed è una carriera che avrebbe anche potuto continuare per qualche anno. Ma lei prende una decisione saggia, direi un altro colpo d'ala, si ritira imbattuta, antepone la vita privata alla carriera, si sposa con il calciatore Curtis Conway, diventa madre di due bambini, Curtis Mohammed Jr., nato nel 2008, e una bambina Sydney del 2011. Lascia il ring e intraprende un'importante carriera di grande successo come personaggio televisivo. Nel 2007 partecipa alla quarta stagione del reality, diciamo, Ballando con le Stelle, e benché non avesse avuto nessuna esperienza come ballerina, ha un successo strepitoso, ricevendo con il suo partner, il ballerino Maxim Kmerkovsky, il massimo punteggio, 10, punteggio mai assegnato ad alcuna coppia in tutto il reality. Welcome back to Dancing with the Stars. According to the judges, our female fighter last week floated like a butterfly and glided like a swan right into second place. Can she mambo her way into first? It's boxing world champion Layla Ali and her partner Maxim Kmerkovsky. On Monday, Layla's performance left Bruno begging for more. Oozing sex appeal and allure. I cannot believe you never danced before. E questi erano i giudici che hanno mostrato tutto il loro entusiasmo. L'anno dopo, nel 2008, Layla ha la sua prima esperienza come presentatrice televisiva. È la padrona di casa di American Gladiators, è un reality che vede atleti non professionisti sfidarsi in diverse contese tra agilità, forza e resistenza. È un programma seguitissimo che ha grande successo e lei lo presenta insieme a un'altra leggenda, la leggenda del wrestling Hulk Hogan. The wait is over. Welcome to the American Gladiators Grand Finale. Tra l'altro, nella sua autobiografia, Hulk Hogan racconta che deve la vita a Layla Ali perché dopo il suo sofferto divorzio del 2009 il wrestler aveva pensato di suicidarsi, ma Layla gli è stata vicina, lo ha convinto a ritrovare il gusto della vita. Quindi anche in questo caso è una grande vittoria della combattiva figlia del mitico Muhammad Ali. E oggi Layla Ali è la conduttrice di Everyday Health, un programma televisivo quotidiano che si occupa di alimentazione e di salute, un argomento al quale ai tempi aveva dato molta importanza anche il padre, che affermava quanto tenesse a una alimentazione sana e corretta, a dare il giusto valore ai pasti in famiglia. Layla ha evidentemente ereditato anche questa passione dal padre. La salute si ottiene tutti i giorni, compiendo scelte intelligenti tutti i giorni. Ecco perché il programma si chiama La Salute Quotidiana, perché ci aiuta a vivere una vita migliore tutti i giorni. Diamo informazioni, raccontiamo storie che possano dare ispirazione per ottenere una migliore salute. Lo sappiamo tutti. Non è possibile che ogni giorno sia un giorno perfetto. Anche io ho i miei momenti difficili, ma per me è importante cercare di comportarmi in una maniera il più possibile sana, facendo scelte intelligenti, riempiendo il mio frigorifero di cose buone, bevendo acqua, riposando bene, prendendo le mie vitamine, cercando di non stressarmi troppo, perché anche io sono una mamma che lavora, ma i miei figli vengono prima di tutto. Per capire meglio i personaggi dei quali noi raccontiamo le vite e le imprese, spesso ci facciamo aiutare da degli esperti di settore. In questo caso probabilmente ancora più importante, perché stiamo parlando di pugilato femminile, uno sport del quale non si sa moltissimo. Noi abbiamo la fortuna di poter parlare con una campionessa mondiale di pugilato, Simona Galassi, europea pesi mosca, mondiale campionessa mondiale Super Mosca. Buongiorno Simona. Buongiorno a te Enrico, buongiorno a tutti. Dunque, noi stiamo raccontando la storia di Layla Ali, una pugile molto particolare, la figlia del più grande di tutti i tempi, che però ha raccontato più volte che lei non è diventata pugile per via del padre, ma per aver visto un incontro di box femminile in TV. Tu come sei diventata pugile? Ma io allo stesso modo, diciamo che non avrei mai immaginato di diventare pugile nella mia vita, perché ho fatto di tutto, ci sono arrivata un po' tardi. C'è stato un momento in cui dopo tanti anni di sport di squadra, sì, ho voluto invece mettermi alla prova individualmente. L'allenatore mi aveva detto: guarda, tu hai una capacità sportiva diversa dalle altre, sì, che mette una capacità anche intellettiva di essere, no, nella partita e nelle altre cose. Quindi, certo, lì mi è venuta una curiosità. Un amico stava facendo sport a combattimento, mi ha detto: ti ci vedo bene, sei una grintosa. E ti dico, come sono entrata in quella palestra la prima sera, ma solo per vedere, io lì mi sono innamorata, perché, certo, lì ho visto la possibilità di mettermi alla prova come volevo io, cioè in modo completo. Certo, senti, voglio farti la domanda più banale di tutte, quella che sicuramente ti avrà già infastidito e ti avranno fatto in mille, cioè quelli che ti dicono che il pugilato non sembra uno sport da donne, tu cosa rispondi? No, che non sembra, lo immagino, cioè, no, ma lo so, ho avuto detrattori, ne ho incontrati tantissimi, certo, e per, certo, fortuna tanti ne ho anche convertiti, nel senso che, cioè, io lo capisco che insomma non sia nell'idea normale vedere una donna fare pugni, però quando si è professionale in quello che, certo, si fa bene, uno si allena con le dovute competenze giusta, poi alla fine ottiene anche dei risultati da un punto di vista proprio tecnico, tattico. Quindi voglio dire, io a tanti di quelli che hanno detto il pugilato non è per le donne, ne ho incontrati veramente tanti, sì, ho fatto veramente cambiare idea, semplicemente perché ho messo così tanta serietà in quello che facevo che poi alla fine certo, si è vista la qualità del mio lavoro, e quindi molti si sono ricreduti. Senti, di solito noi abbiamo raccontato parecchie vite di pugili e c'è sempre una certa caratteristica comune, che è la sofferenza alle spalle delle famiglie disastrate, la povertà, cioè elementi che probabilmente portano a un desiderio di riscatto. Non è un caso, insomma, che anche negli ultimi anni i pugili arrivino sempre, i grandi pugili, i campioni arrivano, non so, da zone difficili. Tu ci credi a questa teoria? Ma guarda, ci credo fino a un certo punto, nel senso che non è la matematica, certo, che fa questa cosa qui. Io, voglio dire, sono una studente universitaria, sono laureata in scienze motorie, una famiglia, sì, normale, è tutto, tutto diverso. Adesso molte cose sono cambiate, ci sono tantissimi campioni che non vengono dalla strada, ma semplicemente poi trovi in te stesso quella determinazione sapevi di avere, ma che quello sport ha tirato fuori, quindi, certo, è chiaro, è facile avere più grinta, più cattiveria quando hai avuto alle tue spalle la necessità di tirarla fuori anche nella vita. Alla, certo, fine scoprire di averla in te, anche se la vita non ti ha messo la prova. Certo. Simona, l'ultima domanda: come vedi lo sviluppo del pugilato in Italia, lo pugilato femminile ovviamente? Adesso c'è Irma Testa, no, che si è qualificata. Esatto, da un punto di vista dilettantistico c'è una grande prospettiva, che è quella del fatto che le donne sono entrate alle Olimpiadi, certo, quindi è una grande possibilità, così come il fatto che Irma Testa sia una atleta giovane di punta, che si sia qualificata, ha la possibilità di fare da traino, certo, per il pugilato femminile in Italia, come sono stata magari io ai miei tempi, certo, vincendo i miei mondiali e tutto il, sì, resto, sì, sì. Però c'è anche da dire che c'è una sorta di crisi generale del pugilato, soprattutto il pugilato professionistico. Certo. Non parlo solo di noi donne, che siamo sempre il fanalino di coda di qualsiasi cosa, ma parlo proprio in generale dello sport, che non ha più una televisione, non ha più un supporto, che quindi arranca, fa una grande fatica, e che spero nel prossimo futuro possa, insomma, ritrovare la chiave per ritornare nella casa della gente, insomma, certo, farsi vedere di nuovo, avere la possibilità di costruire qualcosa di grosso, che in questo momento non c'è né per uomini e soprattutto neanche per noi, certo, donne. Certo. Simona, ti ringrazio infinitamente e complimenti ancora per la tua carriera. Grazie, è stato un piacere parlare con voi. Grazie, ciao, ciao a tutti. Simona. Ci sono storie spesso sconosciute o conosciute non completamente di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, e Laila Ali ha saputo volare come una farfalla, per citare il suo grande padre, che immagino sia stato un esempio ma anche un macigno sulla testa, perché non è facile portare quel nome. Lei ce l'ha fatta. Ognuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, ma può dare anche lui il colpo d'ala che lo porta a volare in alto, come il falco, come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco e il gabbiano @radio24.it, o scrivete al nostro sito, venite a cercarmi, a cercarci nei miei, nei nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete mi trovate. Ciao. A domani.